Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Eccoci insieme, buongiorno a voi, grazie per essere in nostra compagnia. Partiamo, ma prima di andare a sentire i titoli del nostro sommario, un ringraziamento a Pietro Lacorte in regia alla parte tecnica e come sempre a Laura Vanossi in redazione. Aorta addominale, un'arteria di vitale importanza. Alcol e gravidanza, un binomio ad alto rischio. La vita è tutta un film. Uso questa formula ormai collaudata per dare la precedenza agli annunci pubblicati sui giornali per portare la vostra attenzione sul tema di oggi. Combinazione, anche il nome della patologia di cui ci occupiamo può essere abbreviato con AAA, che sta per aneurisma dell'aorta addominale, ovvero la dilatazione permanente di un segmento ben delimitato di questa grande arteria che è a tutti gli effetti la più importante del nostro organismo. Allora, per visualizzarla, immaginiamo un tubo di gomma, ad esempio quello che usiamo per bagnare il prato del nostro giardino, in cui scorre acqua. Per ragioni diverse, che possono andare dalla qualità del materiale, alla manutenzione, all'usura, il nostro tubo ad un certo punto si rovina in una zona precisa che diventa meno resistente. Ma l'acqua che continua a scorrere peggiora la situazione. Insomma, la parete, per effetto della pressione, si rigonfia e si forma una protuberanza. Questo è all'incirca quello che succede nell'aorta quando si sviluppa un aneurisma, con una differenza però: il tubo ce l'abbiamo sotto gli occhi, l'arteria è nella nostra pancia e può sfiancarsi a nostra insaputa, e qui si rischia. Allora, quindi, occhio, direi orecchio a quello che ci racconterà oggi il nostro ospite, che è uno dei migliori chirurghi vascolari italiani, il professor Roberto Chiesa, primario dell'unità operativa di chirurgia vascolare dell'Istituto Scientifico Universitario San Raffaele e direttore della cattedra e della scuola di specializzazione in chirurgia vascolare presso l'Università Vita Salute San Raffaele di Milano. Professore, buongiorno e bentornato. Buongiorno Nicoletta, sempre bravissima. Professore, grazie, grazie. Poi detto da un prof. Senta, io lascio da parte il mio tubo di gomma perché l'ho usato così come per provare a visualizzare questa arteria, perché il tubo, se così vogliamo chiamarlo, di cui ci occupiamo oggi è molto più importante. Come abbiamo messo nel nostro titolo, è di vitale importanza. Ma questo tubo rappresenta l'arteria più importante del nostro organismo. È un'arteria collegata direttamente all'aorta toracica, che prende sangue dal cuore e porta sangue a tutti i visceri addominali e agli arti inferiori. Quindi capite l'importanza che ha l'aorta addominale. Purtroppo l'aorta addominale è una di quelle zone critiche che possono ammalarsi. Si ammalano soprattutto perché c'è l'arteriosclerosi. L'arteriosclerosi è una malattia insidiosa, è una malattia a cui tutti, crescendo, aumentando l'età, andiamo siamo sottoposti a questa malattia, ma in particolare quando si localizza a questa zona dell'aorta addominale distrugge le fibre elastiche presenti nel tessuto, per cui l'aorta non è più estensibile, non è più ben malleabile ad ogni pulsatilità dell'onda sanguigna che arriva dal cuore, e può piano piano dilatarsi sino a raggiungere una misura, un diametro critico per cui può rompersi. Ecco il grosso problema dell'aneurisma dell'aorta addominale. Professore, quali sono le persone più a rischio? Noi pensiamo all'arteriosclerosi e pensiamo agli anni, ma ci sono sicuramente altri fattori che predispongono. Beh, ci sono molti fattori che predispongono all'arteriosclerosi, però direi, parlando proprio di aorta addominale, alcuni sono fattori specifici. Sicuramente l'aumento della pressione. L'aumento della pressione del sangue sicuramente sottopone l'aorta a uno stress maggiore e quindi maggior possibilità di dilatazione. A questo contribuisce sicuramente il fumo, contribuisce il sovrappeso corporeo, contribuisce quindi una cattiva alimentazione, e infine un difetto che purtroppo è tipico e caratteristico della nostra popolazione: la poca attività fisica. L'insieme di questi fattori, quando poi esiste un substrato, una predisposizione genetica, possono favorire la comparsa di aterosclerosi dappertutto, ma in particolare in questa zona dei vasi, cioè l'aorta sottorenale. Bene, allora, dato che l'aorta ce l'abbiamo tutti e molti di noi sono in sovrappeso, molti di noi hanno la pressione alta, fumano e fanno poca attività fisica, io direi facciamoci due conti e poi chiamiamo il nostro numero verde per approfittare del professor Chiesa, 824 0024, messaggi come sempre 349 238 6666. Una mela al giorno. E adesso cambiamo decisamente argomento, parliamo di gravidanza, di alcol in gravidanza. Sappiamo che i medici raccomandano alle donne in attesa di evitare l'assunzione di alcolici, ma ora c'è un nuovo studio che offre una ragione in più per rispettare le raccomandazioni dei medici. In linea con noi il professor Giuseppe Remuzzi, coordinatore delle ricerche del Mario Negri di Bergamo. Professore, buongiorno. Buongiorno, grazie. Beh, lo sappiamo che bere alcolici in gravidanza fa male, ma quello che è stato visto da questi ricercatori in Australia è che può recare un danno permanente al bambino, perché hanno potuto documentare che l'alcol danneggia in un modo diretto il DNA del feto. Sappiamo già che alla nascita il bambino di una donna che ha bevuto alcol in gravidanza ha dei sintomi, dei comportamenti che assomigliano a una sindrome da astinenza dell'alcol, e questo è naturalmente un problema, ma quello che non si sapeva erano le conseguenze dell'abuso di alcol a livello della struttura del DNA, quello che chiamiamo il codice della vita. In Australia hanno preso dei topi, alcuni con il pelo marrone e altri con il pelo giallo. Il colore del pelo dipende dall'espressione di alcuni geni che possono essere modificate, e i medici le chiamano mutazioni, da fattori ambientali. I ricercatori hanno incrociato maschi marroni con femmine gialle. Alcune di queste femmine hanno bevuto durante la gravidanza alcol al posto dell'acqua, in modo da avere un livello di alcol nel sangue che assomigliava a quello di una donna che beva abbastanza alcol. Abbastanza, mi scusi professor Remuzzi, che cosa si intende? Due bicchieri di vino a mezzogiorno, due bicchieri di vino alla sera sono più che sufficienti, non parliamo se uno prende superalcolici, non parliamo se beve fuori pasto, sono più che sufficienti per determinare dei livelli di alcol che erano paragonabili a quelli dei topi in questo esperimento. Ok. Le leggi della genetica sono molto rigorose e permettono di prevedere quanti topi nascono da questi incroci col pelo marrone, quanti col pelo giallo e quanti ce l'hanno un po' giallo, un po' marrone. Nell'esperimento, dalle topine che avevano avuto solo acqua, nascevano dei topolini il cui colore rispettava le previsioni. Quelle alcolizzate davano invece origine a più topini col pelo marrone di quanto prevedano le leggi della genetica. Sembra una cosa un po' complicata, in realtà è molto chiaro l'esperimento nel dimostrare che l'alcol aveva modificato la trasmissione dei geni, quelli da cui dipende il colore del pelo. E quindi possiamo pensare che tanti altri geni saranno modificati così. E per questo possiamo dire che altera il DNA del bambino in modo altera permanente. Altera il DNA del feto, e l'hanno confermato anche studiando altri geni, non solo quelli che sono responsabili del colore del pelo, ma certi geni per esempio che hanno a che fare con la funzione del fegato. Anche in questo caso l'abuso di alcol induceva delle modificazioni in questi geni. Allora, alcol in gravidanza non se ne dovrebbe bere mai, non solo perché poi il bambino può avere dei problemi, dei disturbi, delle alterazioni del comportamento, delle sindromi che assomigliano alla sindrome d'astinenza, tutto quello che sappiamo, ma addirittura l'alcol può danneggiare direttamente il DNA. È davvero una cosa da evitare. Professor Remuzzi, io la ringrazio per essere stato con noi, ci sentiamo presto, intanto buon lavoro e buona giornata. Grazie, grazie e buona giornata a voi. Pronto soccorso. E noi invece, insieme al professor Roberto Chiesa, torniamo ad occuparci della nostra aorta. L'abbiamo localizzata, abbiamo parlato di fattori di rischio, di uno in particolare, l'aterosclerosi. Professore, in pratica queste placche che si vengono a formare possiamo paragonarle un po' al calcare che si deposita sulle tubature degli impianti idraulici. Oggi certo. Vado di paragone, non so come mai. Certo, certo. Sono placche costituite da calcio, colesterolo, fattori ematici, e possono purtroppo alterare gravemente l'endotelio, cioè la parte più interna dell'aorta, e piano piano distruggerla. Si vengono così, come ho detto prima, a formare un cedimento di alcune strutture importanti, soprattutto le fibre elastiche contenute nella parete, e queste cedono sotto l'effetto della pressione, e qui così facilmente può dilatarsi l'aorta addominale. Che ha delle parti più a rischio, vero? Certo, soprattutto questa zona al di sotto dell'origine delle arterie renali è particolarmente a rischio, è la zona che noi sappiamo tende più facilmente a dilatarsi e quindi è la zona su cui dobbiamo puntare la nostra attenzione quando si parla, quando si tratta di aneurisma dell'aorta addominale. Professore, i casi di aneurisma stanno aumentando, ma io credo che questo dato vada un po' interpretato, perché in parte l'incremento potrebbe essere solo apparente e dovuto, o spiegato, con il miglioramento delle procedure diagnostiche. Ma sicuramente i casi vanno aumentando almeno per due motivi. Uno, che la popolazione vive di più, quindi sì, l'età media sicuramente è aumentata e ovviamente aumentando l'aorta invecchia e più facilmente può ammalarsi. Secondo, sicuramente oggi abbiamo delle procedure diagnostiche talmente raffinate e incruente, cioè che non danno nessuna nocività al paziente, per cui la popolazione può essere facilmente controllata e si può ben evidenziare un aneurisma dell'aorta. Sto parlando dell'ecografia, meglio dell'eco color Doppler, che ci permette proprio di visualizzare con gli ultrasuoni, quindi senza radiazioni ionizzanti, il tratto di aorta interessata, di capire se è dilatata, di capire se c'è del materiale trombotico all'interno di questa dilatazione e soprattutto ci permette di seguirlo nel tempo, capisce? Di capire quanto è dilatata e di vedere nel tempo se questa dilatazione è stabile, è ferma oppure tende ad evolvere, tende ad aumentare. Perché, professore, il problema è che l'aorta si ammala, si sfianca, ma non dà segni chiari. Si può scoprire solamente attraverso esami o ci sono dei sintomi che a saperli leggere bene potrebbero creare il sospetto? Penso a mal di pancia, penso a mal di schiena o a qualcosa del genere. Purtroppo l'aneurisma dell'aorta è una malattia assai insidiosa. Infatti, come ben lei ha detto, l'aorta aumenta, si dilata lentamente, piano piano, senza dare sintomi, trova, come posso dire, spazio tra gli organi intestinali. Quindi non esistono neanche segni che possiamo diagnosticare con i normali esami del sangue per dimostrarci che esiste un aneurisma dell'aorta. Quindi ribadisco, io credo che arrivati ad una certa età, soprattutto se esistono fattori di rischio come quelli che abbiamo citato e soprattutto se esiste una familiarità, cosa di cui non abbiamo parlato prima, cioè se in famiglia c'è qualcuno che ha sofferto per un aneurisma dell'aorta, io credo che sia molto importante iniziare uno screening per valutare almeno una volta nella propria vita com'è il proprio albero arterioso. Professore, è un problema più maschile o femminile? Guardi, probabilmente percentualmente è maggiore nel maschio, sì, però non è bassa neanche la percentuale presente nella femmina. Sicuramente la malattia aterosclerotica alcuni anni fa era più diffusa nel maschio per l'abuso di fumo prevalente nel maschio. Oggi purtroppo fumano. Stiamo guadagnando terreno anche noi. Sia uomini che donne. L'età cresce in tutti, i fattori di rischio sono assolutamente presenti in tutti, quindi io direi è difficile dire con sicurezza più nell'uomo o nella donna, forse oggi è ancora un po' più frequente nel maschio. Andiamo a Vicenza, ci aspetta Ivan, 824-0024, buongiorno Ivan, benvenuto. Buongiorno a tutti. In effetti testimonio che la malattia è completamente asintomatica. Tanto è vero che io l'ho scoperta per caso, fra virgolette, nel senso che è andato a farmi un'ecografia per altri problemi e un dottore scrupoloso mi ha chiesto quanti anni avevo, ho detto 50, e mi ha detto diamo un'occhiatina alla aorta, vediamo come è messa, e difatti mi ha trovato una dilatazione di 6 cm. A quel punto lì sono stato operato dopo 4-5 mesi, tutto bene, non c'è stato nessun problema. Anche il risvolto della malattia dopo un paio di mesi ero in forma di nuovo. La domanda che io volevo fare al professore è semplicemente questa: a distanza di 3 anni ci sono degli esami che devo fare, delle verifiche, dei controlli? Ne ho fatto uno dopo un anno e poi basta così, oppure è meglio fare dei controlli, e che tipo di controlli bisogna fare? Grazie Ivan. Professor Chiesa, Ivan ci dà tanti spunti su cui tornare, ma intanto possiamo prima dargli una risposta e poi torniamo indietro. Certo, signor Ivan, complimenti per la diagnosi, complimenti per l'intervento, molto bene. Io credo che un'ecografia di controllo a un anno di distanza sia sufficiente. A 3 anni di distanza per essere assolutamente più accurato, più preciso, forse un attack potrebbe metterci assolutamente al sicuro. Io credo però che nei primi anni dopo l'intervento un'ecografia all'anno sia assolutamente più che sufficiente per valutare il buon andamento, la buona riuscita dell'intervento, ovviamente oltre alla situazione clinica. La situazione clinica è il primo specchio che dimostra come va la situazione, capisce? Professore, Ivan ci dice: il medico scrupoloso, avendo io 50 anni, ha detto diamo un'occhiatina all'aorta. È questa l'età in cui bisognerebbe farsi controllare, soprattutto se abbiamo uno stile di vita, abbiamo dei valori della pressione alta, fumiamo? Io credo che a 50 anni sia obbligatorio uno studio dell'apparato vascolare nella popolazione. Ma non solo dell'aorta, va studiato a 50 anni l'aorta, vanno studiate le carotidi, va studiata la periferia. Ripeto, un controllo perlomeno a 50 anni secondo me può togliere dai problemi molte persone, capisce? Perché ci permette veramente in modo incruento e senza esami a rischio di capire com'è la situazione vascolare di un paziente, quindi è assolutamente consigliabile. Ivan ci racconta anche che è stato operato e ci ha dato una dimensione del suo aneurismo. Conta la dimensione? Certo, 6 centimetri comincia a diventare un aneurisma di dimensioni significative. Un aneurisma comincia a diventare preoccupante dal punto di vista dell'evoluzione passati 4 centimetri e mezzo, 5 centimetri. A queste dimensioni l'aneurisma va assolutamente considerato degno di essere trattato chirurgicamente e poi discuteremo. Certo, le opzioni chirurgiche. Certo. E intanto andiamo a Bergamo, c'è Fabrizio. Fabrizio, buongiorno. Buongiorno, saluto tutti in trasmissione. Sì. Dunque, io volevo sottoporre il mio problema, se possibile. Diciamo che non ho avuto un aneurisma, che mi sembra l'argomento della trasmissione, sì, vero? Sì. Ma bensì una dissecazione dell'arteria mesenterica superiore. Aspetti che chiediamo al professor Chiesa di spiegarci che cosa le è successo. Professore. Patologia rara. La mesenterica superiore è uno dei rami importanti che nascono dall'aorta e che vascolarizza buona parte dell'intestino tenue, buona parte degli organi come il duodeno, il pancreas e parte del colon ascendente. Dissecazione vuol dire che si è rotta la parete interna dell'arteria e del sangue si è infiltrato nelle tuniche dell'arteria, capisce? Sì. E l'effetto di questa cosa può essere un'occlusione dell'arteria, quindi un'ischemia dell'intestino. Fabrizio. Cioè, meno sangue che arriva all'intestino, capisce? Esattamente. Diciamo che io ha detto bene Fabrizio al professore. Ha detto bene, esattamente. Bene. Questo è successo a novembre dell'anno scorso, diciamo così. Ecco, diciamo che io ho 56 anni e non ho mai sofferto di circolazione, tantomeno di cuore, insomma. Tutti gli elettrocardiogrammi che ho fatto nella mia vita praticamente hanno sempre dato esito negativo, no? Però a un certo punto mi è scoppiato questo problema, diciamo, improvvisamente, sì. Diciamo così, ecco. Diciamo che sono stato ricoverato e diciamo con un angiotac, se non sbaglio, hanno in pratica scoperto appunto questa riduzione di flusso per quanto riguarda il discorso arterioso, no? Mm. Diciamo che sono stato ricoverato in ospedale per circa una decina di giorni e praticamente sono stato curato con l'eparina, praticamente. Ho fatto delle iniezioni di eparina. Fabrizio, adesso se vuole venire alla domanda, vediamo che mi sembra che la situazione sua sia sotto controllo perché ci chiama e la racconta con grande serenità. La domanda per il professore? Diciamo che io sono iperteso e prendo anche delle statine per il colesterolo. Sì. Fumo, diciamo, pochissimo, due sigarette al giorno, ecco. E sto prendendo praticamente tutti i giorni una cardiospirina. Sì. E non sto facendo nessun altro tipo di particolare di cura, insomma. Professor Chiesa, Fabrizio, come si sta comportando? Si sta comportando bene, però abbiamo capito il motivo probabilmente di questa dissecazione, l'ipertensione del paziente, questo sicuramente gioca, capisce, è un fattore di rischio importante. Lui mi sembra che si stia comportando molto bene perché fortunatamente questa dissezione si è risolta con la terapia medica e quindi la terapia che sta assumendo, cioè cardiospirina, una statina e farmaci per il controllo della pressione rappresentano una terapia ideale, direi. In più il controllo, lui deve controllare strettamente ecograficamente, con metodi diagnostici un po' più accurati, questa dissezione, l'evoluzione della dissezione nel tempo. Siamo tornati insieme, oggi dedichiamo la nostra trasmissione, la nostra puntata all'aorta. Abbiamo detto che è un'arteria molto importante che può ammalarsi, sfiancarsi. Parliamo di aneurisma dell'aorta addominale insieme al professor Roberto Chiesa. Professore, se l'aneurisma è piccolo e quindi non va operato, che cosa deve fare la persona? Deve modificare il suo stile di vita, fare dei controlli regolari? Guarda, se l'aneurisma è piccolo, e parliamo di aneurismi fino a 4 centimetri per dare una definizione, sì, che credo sia comoda per tutti, perché almeno si possono identificare numericamente i valori, una persona deve correggere il proprio stile di vita, soprattutto deve attentamente controllare la pressione, mantenere la pressione a livelli di assoluta normalità, in un range normale. Questa è la cosa più importante, perché è direi il fattore di rischio più elementare, più chiaro per la possibile rottura dell'aneurisma. Poi ovviamente modificare quegli altri fattori di rischio che abbiamo considerato: il sovrappeso, certo tipo di controllo dietetico, certo, il fumo, che sicuramente rappresenta un fattore di rischio elevato, anche perché fumando si aumenta la pressione, questo è da ricordare e nessuno lo ricorda mai, quindi sono tutti fattori di rischio che insieme possono permettere un controllo preciso. Ma soprattutto chi ha un aneurisma in follow up, come si dice, richiede un attento controllo, e io direi ecografico, sì, a date precise, cioè annualmente, o se una persona particolarmente precisa anche semestralmente, un controllo ecografico dell'aneurisma. Si può fare attività sportiva? Un ascoltatore mi scrive: sono un ciclista, 47 anni, faccio tutti gli anni, ha un piccolo aneurisma, dice che fa tutti gli anni un eco al cuore, non è iperteso e non fuma, e gli hanno detto che può fare gare, ma il nostro amico ciclista vuole il suo parere, professor Chiesa. Ma dipende dalle dimensioni dell'aneurisma. Io direi che si può fare attività sportiva, ovviamente fare attività sportiva agonistica portando prestazioni al limite porta anche un incremento della pressione importante, e questo non giova all'aneurisma, capisce? Certo. Quindi io direi sì, attività sportiva, non spingere a livelli massimali, questo credo che sia proprio logico come pensiero, capite? Quindi sicuramente non negare l'attività sportiva, anzi l'attività sportiva fa bene, però sempre, e ribadisco, con un controllo pressorio efficace. Rispondiamo ad Amerigo, poi c'è Daniele e andiamo in sala operatoria. Amerigo, buongiorno. Buongiorno. Professore, mi ascolta? Sì, il professore, ecco, la sente. Certo. Sì, grazie. Professore, il mio problema è un altro. In realtà a me era un'insufficienza aortica della valvola, e questo a seguito di reumatismi e tonsilli. Poi però venni operato fortunatamente dal professor Pierangeli Almagnani di Bologna, e solo che all'epoca mi dissero che probabilmente la durata della protesi poteva essere dai 20 ai 25 anni. C'è da dire che io sono stato doppiamente fortunato, perché sono stato tra il secondo semestre, quindi le protesi non difettose, quelle famose brasiliane, quindi a me è andata bene. Solo che adesso, con un po' di colesterolo, mi ha detto il cardiologo che mi segue, di fare un po' di camminata e anche leggermente correre leggermente. Io volevo sapere se c'è ancora una certa garanzia per questa protesi, si sa qualcosa, certo. Mi può far bene, Amerigo, male. Due problemi. Uno, lei è stato fortunato, qui è stato operato da un chirurgo eccezionale, il professor Pierangeli di Bologna, è un grande maestro. Secondo punto, è un problema un po' diverso da quello di cui stavamo parlando. Lei è stato, sì, operato per un problema di una valvola cardiaca, capisce? Noi stiamo parlando di aorta addominale. Ad ogni modo, di solito la durata di queste valvole non è illimitata, però abbiamo esempi di buona durata sicuramente di queste valvole. Quindi se lei si sottopone a un controllo preciso e si vede che la valvola è ben funzionante, io sarei ottimista e proseguirei, ovviamente abolendo tutti quei fattori di rischio. Il colesterolo va abbassato, la pressione va controllata, però direi è una bella passeggiata al giorno, leva il medico di torno, anche per Amerigo. Daniela, dalla provincia di Milano. Sì, buongiorno a tutti. Buongiorno Daniela. Già in parte mi avete risposto a una domanda, nel senso che l'aneurisma, quando supera i 4-5 centimetri, va trattato chirurgicamente. Sì. Per una persona di 72 anni, l'età può essere un fattore di rischio? Grazie Daniela, così introduciamo professor Chiesa. Certo, signora Daniela, sicuramente l'età rappresenta sempre un fattore di rischio, cioè più l'età avanza più sicuramente è un fattore di rischio superiore. Tuttavia non basta l'età, cioè bisogna considerare globalmente com'è la situazione del paziente prima di proporre a un paziente l'intervento. Bisogna valutare la sua funzione cerebrale, bisogna valutare le sue carotidi, bisogna valutare il suo cuore, bisogna valutare lo stato generale del suo apparato respiratorio e ultimo, ma non come importanza, la situazione renale, capisce? Solo quando noi abbiamo un quadro completo delle funzioni dell'organismo considerate globalmente, possiamo cominciare a parlare di indicazione all'intervento, di tipo di intervento, di che cosa è meglio per il nostro paziente. Quindi sempre una presa in visione globale, totale del malato, mai un solo aspetto. Allora, professor Chiesa, arriviamo al momento in cui il medico, il chirurgo dice il suo aneurisma va operato. Come lei ha precisato, bisogna considerare la situazione della salute globale del paziente, ma sappiamo che le opzioni sono l'intervento tradizionale a cielo aperto, quello in pratica in cui ti tagliano la pancia, no, professor Chiesa? Sì, allora abbiamo oggi, e questo lo dobbiamo all'evoluzione della scienza e della tecnologia applicata alla scienza, due grosse possibilità. Una tecnica cosiddetta open aperta, chirurgica, introdotta negli anni 50 direi, è evoluta nel tempo, soprattutto evoluta con il tipo di materiale che usiamo, che consiste nell'apertura dell'addome, in un'incisione che può essere più o meno ampia, più o meno limitata, nella chiusura temporanea dell'aneurisma, nell'apertura, asportazione del trombo all'interno dell'aneurisma e nella ricostruzione posizionando questa protesi al posto dell'aneurisma. Il sangue scorre attraverso questa protesi. Sì. È un intervento che facciamo routinariamente, è un intervento ovviamente di alta chirurgia, quindi ha dei possibili fattori di rischio legati soprattutto non tanto all'intervento stesso ma quanto al tipo di paziente, capisce? Sono pazienti anziani, spesso con problemi cerebrali, respiratori o renali, quindi è un intervento sicuramente che deve essere gestito, organizzato, eseguito e seguito il paziente in un centro di elevata specializzazione che può offrire al paziente ogni tipo di assistenza, compresa la terapia intensiva postoperatoria, che non è sempre richiesta, assolutamente. Però abbiamo poi, e questo è comparso negli ultimi 10 anni, una nuova metodica che non è una metodica alternativa, ma è un'altra opzione. Cioè, io vorrei essere molto chiaro, abbiamo due possibilità di operare il paziente oggi, con una metodica di chirurgia aperta e con una metodica invece che viene chiamata endovascolare. Cosa succede in questo caso? Tramite una via d'accesso, che di solito è un'arteria delle gambe, ad esempio l'arteria femorale, si sale con una device, cioè con un particolare tubo su cui è montata una protesi. Questa raggiunge l'aneurisma dall'interno, viene espansa, viene rilasciata questa protesi che va a sigillare l'aneurisma, capisce? Sul colletto superiore e sul colletto inferiore, così che l'aneurisma è escluso dal circolo, sì, e praticamente non c'è più la spinta pressoria sulle pareti ammalate della aorta, ma la spinta pressoria viene esercitata sulla protesi. Quindi questo sistema permette di escludere completamente l'aneurisma dal circolo. Adesso, professore, lei è stato chiarissimo. E noi siamo tornati veloci veloci perché andiamo a Napoli. Ci aspetta Grazia, 824 0024. Grazia, buongiorno e benvenuta. Buongiorno a voi. Posso? Certo, grazie. Allora, mio marito gli è stato riscontrato questo aneurisma addominale di circa di 43x38 mm e quindi dopo un'ecografia gli è stato consigliato di fare un angiotac addominale. Sì. E siccome lui insomma, è un soggetto abbastanza a rischio, cioè diabetico e cardiopatico, iperteso... Quanti anni ha, Grazia? diciamo che ecco, adesso sono subentrato un po' di ansie e volevo chiedere se la cosa invece lo facciamo in The Hospital, la medicina futura, e quindi volevo sapere se è opportuno fare questo angiotacco, se siamo a porta dei rischi. Grazie, volevo sapere anche l'età di suo marito, professor Chiesa. Ha 63 anni, 60, appena compiuti. 63, va bene. Professore. Certo, ben capito. Allora, questo è un paziente con dei fattori di rischio importanti, avete sentito? Sì. Non è più giovanissimo, anche se non è anziano, 63 anni, è diabetico, probabilmente sovrappeso legato al diabete, e ha un aneurisma borderline, cioè un aneurisma che è a una misura assolutamente limite, capisce, per scegliere tra una terapia osservazionale e una terapia intervenzionale. Quindi io credo che l'esecuzione di un esame più approfondito dell'ecografia, che è l'angiotac, ci permetta di ottenere dei dati molto importanti per quanto riguarda la nostra condotta. Soprattutto, che cosa vediamo con un angiotac? Vediamo le caratteristiche dell'aneurisma, vediamo le pareti dell'aneurisma, vediamo se le pareti sono solide, se le pareti non mostrano segni di fissurazione, e soprattutto vediamo se il trombo, cioè il materiale, il coagulo che spesso c'è all'interno dell'aneurisma, è organizzato o se tende alla possibilità di rompersi. In base alle caratteristiche dell'esame angiotac decideremo se scegliere per un'opzione intervenzionistica o per un'opzione di attesa. Professor Chiesa, ma anche quelli piccoli possono rompersi? Certo, purtroppo la nostra esperienza è che anche aneurismi piccoli, abbiamo osservato rotture di aneurismi anche al di sotto dei 4 centimetri, quindi l'aneurisma, come ho detto già numerose volte, va assolutamente tenuto sempre sotto controllo, in modo preciso, assieme ai fattori di rischio. Professor Chiesa, vogliamo parlare invece della situazione di emergenza? Immagino che il fattore tempo sia determinante, quasi e quanto più di un infarto. Allora, la rottura di un aneurisma dell'aorta addominale è, come tutte le rotture di aneurisma aorta, un evento di emergenza assoluta. Perché? Perché è un evento che mette a repentaglio la vita, cioè una rottura di aneurisma dell'aorta può essere mortale, capite? Ma come faccio ad accorgermene? Ci se ne accorge perché esistono alcuni sintomi gravi che sono assolutamente evidenti, e che sono il dolore forte a livello addominale, che può irradiarsi posteriormente al fianco, e spesso si associa uno stato di shock, cioè il paziente ha un calo repentino e violento di pressione. E poi, terzo punto, a un esame medico, a un esame clinico immediato, spesso si osserva questa massa a livello addominale, questa ingombro, questa occupazione a livello addominale che deve far pensare al clinico alla rottura di aneurisma, capisce? In questo caso subito in pronto soccorso. In questo caso è obbligatorio correre, volare in pronto soccorso e essere sottoposti a una diagnostica immediata, che può essere innanzitutto l'esame ecografico, e poi, se c'è il tempo, perché la situazione del paziente è ancora abbastanza stabile, l'esecuzione di un TAC, altrimenti l'intervento chirurgico. Professor Chiesa, operati d'urgenza, speriamo no, o invece con un intervento programmato, come continua la vita di una persona che è stato operato di aneurisma? Un intervento chirurgico sull'aorta addominale eseguito in elezione oggi richiede un tempo ragionevole di decorso post-operatorio. Abitualmente il paziente viene dimesso in quinta, sesta giornata, se operato con un'endoprotesi addirittura ancora meno, in terza, quarta giornata, e direi dopo un rapido periodo di riabilitazione, un periodo di riabilitazione di una quindicina di giorni, che può essere svolto o in un centro adatto oppure anche a domicilio, riabilitazione relativamente semplice, direi che il paziente può ben riprendere la propria attività normale. Direi che come tempo medio di ripresa per ritornare alle proprie occupazioni, per ritornare a una vita di lavoro, una vita di società normale è 25 giorni, un mese, il paziente rapidamente rientra. Quindi direi ben sopportabile. Professor Chiesa, però si possono formare altri aneurismi? Purtroppo sì, tutta l'aorta e tutti i vasi rami che originano dall'aorta possono essere sede di aneurisma. Può dilatarsi e diventare aneurismatica l'aorta ascendente, quella che origina dal cuore, l'arco dell'aorta, l'aorta discendente, fino alle arterie iliache, fino alle arterie delle gambe, fino alle poplite. Le poplite sono le arterie poste dietro al ginocchio nel cavo popliteo e sono sede frequente di aneurisma. Aneurisma poi lo possiamo vedere a livello delle carotidi, lo possiamo vedere anche alle arterie delle braccia. Quindi è una malattia diffusa, può interessare tutte le arterie. Certo, specificatamente direi è l'aorta di maggior calibro, quindi quella addominale e quella toracica, che sono più sottoposte a questa malattia. Ma nelle persone che hanno già avuto un aneurisma all'aorta addominale c'è il rischio, c'è un aumentato rischio di incorrere in un altro aneurisma? Ma questo sì, sicuramente percentualmente esiste un rischio aumentato, è per quello che queste persone sono consigliate di sottoporsi a un controllo. Chi ad esempio è stato operato in aorta addominale è meglio controllare anche l'aorta toracica, questo è sicuro. Professor Chiesa, allora, considerando che abbiamo visto che è abbastanza frequente, ci sono dei fattori di rischio che possono essere in qualche modo tenuti sotto controllo, a chiusura di questa nostra puntata vogliamo fissare le regole di non posso parlare di prevenzione, ma che cosa dobbiamo ricordarci? Allora, che l'aorta è il vaso più importante che abbiamo nel corpo, perché è il vaso che porta il sangue a tutti gli organi e alle estremità. È un condotto prezioso, è un condotto che va salvaguardato, va controllato. Primo punto è stare molto attenti alla propria pressione. Il controllo della pressione arteriosa è il punto base per evitare o perlomeno rallentare le malattie dell'aorta. Secondo, un occhio alla genetica. Casi in famiglia. Ricordarsi in casa se esiste, se c'è stata papà, mamma, fratelli, parenti più o meno stretti, ovviamente i più importanti parenti stretti, se hanno avuto malattie vascolari. Quindi questo è importante ricordarselo. Terzo, condotta di vita normale, io direi, non stravizi, non eccessi alimentari, bere un po' di vino rosso sicuramente fa bene, abolire per quanto è possibile il fumo e chi è iperteso, farmaci antipertensivi per regolare la pressione, questo sicuramente. E poi dopo i 50 anni con un controllino. Infine, altro dato importante farmacologico che soprattutto negli ultimi anni è risultato molto importante, l'uso delle statine. Le statine bloccano in modo favorevole il metabolismo del colesterolo, facendo scendere il colesterolo cattivo, e questo è importante per i vasi. Ultimo punto, un controllo. Io direi che ogni medico di base che ha a cuore, che conosce bene il suo paziente, deve dopo una certa età consigliare un controllo ecografico dell'aorta del proprio paziente. Professor Chiesa, grazie per essere stato con noi, è stato davvero chiaro. Grazie, è prezioso, è prezioso come l'aorta. Buona giornata. Grazie, al professor presto, Chiesa. Grazie. E noi prima di salutarci vogliamo dare un consiglio a chi spesso per pigrizia, insicurezza, potrei fare un elenco lungo, insomma, invece che fare un passo avanti ne fa un indietro, rinunciando a occasioni che lo renderebbero felice. Sarei dovuto venire, davvero. Ora sono diverso. Ok, fammi capire, tu devi dire sì a qualunque cosa. Sì, esattamente. Lo dicevi anche tu, non ero aperto alla vita e ora invece sì, e le cose stanno cambiando. È come se l'era del sì fosse cominciata. Senti, se ti fa uscire di casa mi sta bene. Scusami, ci porti un altro giro? Anzi, adesso apriamo un conto e il nostro caro amico Carl Allen penserà a pagarlo. Beh, tu sei d'accordo, non è vero? Sì, sì, come no? Ok. Che ti sei messo in testa, stronzo? Ehi, calma, calma, dai. È stato solo un malinteso, senti, ok? Sto solo dicendo di sì alla vita, amico. Si deve dire di sì alla vita. Ehi, vieni fuori che ti dico due parole. No, senti, no. D'accordo. Però se vinco, allora la tua bella ragazza la porto a ballare. Perché se lo merita. Ogni bella ragazza si merita di andare a ballare. Grazie, sei proprio carino. Bene, da questo breve estratto del film Yes Man arriva un suggerimento che può farci riflettere. Noi riflettiamo a voce alta insieme a Marta Cagnola. Marta! Buongiorno, sì, devo dire subito che questo film ha ispirato molto me per prima, non tanto per la qualità cinematografica, è una commedia divertente, diciamo così, ma proprio per il messaggio. Yes Man, lo hai detto, con Jim Carrey. Velocemente la trama. Carl è stato sposato per 6 mesi, poi è stato lasciato dalla moglie. Sono passati 3 anni, lui si è chiuso in casa, nonostante gli amici gli dicano esci, fai, combina niente. Qualcosa, lui dice sempre di no. A un certo punto incontra una specie di guru, succede in questi film americani, che gli dice: tu devi dire sempre di sì, e lui lo fa. Lui lo fa, dice di sì a tutto, ed è questo l'insegnamento del film: rischiare per vivere a pieno. Lo ha fatto anche Jim Carrey, l'attore che si è buttato davvero da un ponte, ha fatto il bungee jumping davvero, non con uno stuntman. Questo film insegna a dire sì alla vita anche nelle piccole cose, anche quando fa freddo come questi giorni, siamo stanchi, impigriti, dire sì, uscire, fare, perché non si sa mai quello che ci aspetta prendendo l'iniziativa. Allora domani, Marta, noi ci ritroviamo tutti qui, la risposta a questo punto non può essere che sì. Sì? Sì. Buona giornata a voi, all'insegna della positività. Un saluto da Nicoletta Carbone e da Marta Cagnola.